un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, ben ritrovati anche per questa sera, commentando insieme i fatti del giorno fino alle 20:45. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i telegiornali andati in onda, TG2. Arrestato il boss Setola, capo dei casalesi, sfuggito due giorni fa alla cattura, ha tentato la fuga sui tetti, avete vinto voi la sua prima fase ai carabinieri. Maroni, colpo durissimo alla camorra. Il Brasile dice no all'estradizione di Battisti, al terrorista rosso condannato in Italia per 4 omicidi, riconosciuto lo status di rifugiato, il figlio di una vittima, per noi, peggio di uno schiaffo. Hamas favorevole al piano egiziano per una tregua, più di 1000 i morti a Gaza, missione del segretario generale dell'ONU, da Israele dice uso eccessivo della forza. Si allenta la morsa del maltempo al sud, flagellato dalla pioggia, frane e fiumi in piena. Sicilia, Calabria e Campania le regioni più colpite. Ora una tregua, poi ancora freddo e neve al nord. Sono nulle le multe alle moto lasciate in sosta sul marciapiede. Se a farle sono gli ausiliari. Per la Cassazione possono solo sorvegliare i posteggi e gli spazi riservati ai mezzi pubblici. Beh, avete sentito il boss Settola appena catturato, dice ai carabinieri avete vinto voi. Dall'altra parte del mondo, in Brasile, bisogna dire una cosa, forse ha vinto lui di fronte ai tentativi, direi piuttosto deboli, di riportarlo in Italia. Alla fine ha vinto l'ex terrorista Cesare Battisti, che addirittura riceve dal Brasile il timbro di rifugiato politico. Ne parleremo tra poco dopo i titoli di Studio Aperto. Dopo 2 giorni di fuga è stato arrestato il superboss dei casalesi, Giuseppe Setola. Si nascondeva in un casolare al confine tra Lazio e Campania. Lunedì era riuscito a scappare dalle fogne, oggi ci ha riprovato sui tetti. Era armato e con 100.000 euro. Presto sarà un uomo libero. Il terrorista Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi, non sarà estradato in Italia perché ritenuto un rifugiato politico dalle autorità del Brasile. La rabbia delle vittime protesta la Farnesina. Curato per un'otite, invece aveva una malattia rara ed è morto a 28 anni per una diagnosi sbagliata. Negligenza e omicidio colposo, 2 specialisti bresciani a giudizio, la moglie, potevano salvarlo. Tolleranza zero a scuola, Treviso in prima linea, al magistrale vietate minigonne e ombelichi scoperti, niente telefonini e sigarette in uno scientifico, 5 in condotta, chi sgarra, ecco come l'hanno presa i ragazzi. Bufera sugli operai della giuria popolare alla vigilia del processo per il Rogo Thyssen che si apre domani, per la sicurezza si fa troppo poco, dicono in un'intervista, la Corte potrebbe sostituirli. Bene, alle 18:37 vi ricordo il numero per intervenire, 800 24 00 24. In Italia bisogna ricordare alcune cose e tenerle bene presenti. In Italia Cesare Battisti è stato condannato come responsabile di 4 omicidi, 3 come concorrente nell'esecuzione, 1 pianificato da lui ed eseguito da altri. 6 giugno 78 a Udine, Antonio Santoro, maresciallo della polizia penitenziaria, omicidio di cui fu l'esecutore materiale. 16 febbraio 79, Santa Maria di Sala, Venezia, Lino Sabbadin, macellaio di Mestre, Battisti fece da copertura armata all'esecutore materiale Diego Giacomini. 16 febbraio 79 a Milano, Pierluigi Torreggiani, gioielliere, omicidio per cui Battisti fu condannato come coideatore e coorganizzatore in quella stessa impresa, il figlio di Torreggiani rimase paralizzato. 19 aprile 79 a Milano, Andrea Campagna, agente della Digos, dunque un funzionario di polizia, omicidio di cui Battisti fu l'esecutore materiale. Naturalmente Battisti si è sempre dichiarato innocente, ma d'altra parte che non sarebbe mai stato assicurato alla giustizia italiana lo fece capire anche una famosa intervista rilasciata alle Iene, perché quando uno arriva a farsi intervistare dalle Iene in quel modo, evidentemente è sicuro che in Italia, prigioniero, catturato, non ci tornerà mai più. Era il 20 marzo del 2007, sentitelo. Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato 4 persone? Falso. La tua verità? Io devo assumere la responsabilità politica di quegli anni lì, però non posso accettare un istante soltanto il processo che ci è stato fatto. Di cosa vivi? Scrivendo. E prima? Ho fatto di tutto. L'incontro che ti ha cambiato la vita? Una gran bella ragazza che ho seguito fino alla lotta armata. Come si chiamava la tua organizzazione? Proletari Armati per il Comunismo. Cosa c'entravano con le Brigate Rosse? Nulla. Cos'erano le Brigate Rosse? Per me era una specie di PC armato, ragionavano uguale, avevano gli stessi schemi, c'era un universo tra noi. Ti senti ancora un militante? Beh, sì, militante vuol dire lavorare a tempo pieno per un ideale, no. Qual è stata la tua prima azione? Credo di aver bruciato una macchina. E qual è quella che ricordi con maggiore intensità? Un'azione di finanziamento dove ci hanno applaudito uscendo dalla banca. Chi applaudiva? I clienti e gli impiegati. Com'è andata? Senza armi, senza niente, nessuna violenza, offrendo sedie alle donne anziane, è stata una scena piacevole. Scusa, ma non avevate le pistole? Chiaro, però a un certo punto non c'era neanche più bisogno. In Italia si è arrivati a un punto dove qualcuno entrava in banca e diceva: io appartengo alle Brigate Rosse, datemi 200 milioni, e il direttore della banca glieli dava. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale, perché la vita umana è qualcosa che non si dovrebbe toccare. Quando ci sono stati morti c'era un malessere generale, cosa significa? Non si capisce, e insomma in tutti questi anni non c'è mai stata una parola, una semplice parola, non dico di pentimento, ma anche di contrizione o un piccolissimo moto verso i parenti delle vittime da parte di Battisti. Voglio solo ricordare che l'agente Campagna, che secondo le sentenze fu ucciso proprio da Battisti, viene colpito in un agguato sotto il portone dell'abitazione della sua ragazza in via Modica a Milano con parecchi colpi di pistola in pieno volto mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura dopo aver espletato il turno di servizio. Sempre Battisti e sempre alle Iene, 20 marzo 2007, quali sono le azioni che apprezzavo di più quando facevo il rivoluzionario? Io le azioni che apprezzavo di più era, non so, occupare un supermercato per mezz'ora. Si risente una gioia fortissima. Perché? Perché la gente si fa la spesa e esce senza pagare, e perché il quartiere intero è dalla nostra parte, è chiaro. Ma questa era una rapina o un gesto politico? Era un gesto politico, ma negli anni 70 c'erano migliaia di persone che rapinavano le banche. Ripeto, quando uno rilascia una intervista del genere alle Iene, e sto parlando delle Iene, il 20 marzo del 2007, perché una qualche sicurezza ce l'ha poi alla fine di non tornare in Italia, o comunque trattasi di persona molto spavalda che conta su diversi appoggi in Francia, come ha contato su diversi appoggi in Francia per andare in Brasile, dove evidentemente si sentiva, non dico sicuro perché forse si è arrivati a un passo dalla sua estradizione, però poteva contare su numerosi appoggi politici. Sono un perseguitato, disse sempre in quell'intervista, sentiamolo. E oggi ti consideri un perseguitato? La parola perseguitato non mi è mai piaciuta, però comincia ad avere un senso quasi. Perché secondo te lo Stato italiano ce l'ha ancora tanto con te? Lo spaventapasseri rosso è sempre buono da tirar su per coprire un sacco di cose. Roberto Dalla Rocca, vicepresidente delle associazioni vittime del terrorismo, dice che si è passati dalla dottrina Mitterrand, ricordate che consentì di accogliere in Francia numerosi terroristi o ex terroristi, persone che si erano macchiate di fatti di sangue e non, alla dottrina Lula. Ha fatto 2 anni di prigione in Italia, poi è stato in Messico, è stato in Francia per lunghi anni, ha potuto usufruire della protezione di rifugiato politico dapprima in Francia. Nel momento in cui si chiude o si sta per chiudere il cerchio, non si sa bene perché, come mai eccetera, però si allentano la sorveglianza nei suoi confronti, lui riesce totalmente a evadere e riesce ad andare in Brasile, dove dopo 28 anni, questo veramente è stata la cosa grottesca, torna indietro l'orologio e si apre una dottrina Lula, non è una dottrina Mitterrand, dottrina Lula, cioè nei confronti di un soggetto macchiato di gravissimi reati e si ritorna nuovamente con la canzonetta della persecuzione politica. E infatti la nuova dottrina Lula si basa fondamentalmente su 2 pilastri, il rischio di una persecuzione politica, questo ha detto il ministro della giustizia Tarso Genro per giustificare il suo provvedimento, e poi in questo comunicato, nel provvedimento che ha concesso lo status di rifugiato politico a Battisti, ha messo in dubbio che il processo avvenuto in Italia fosse equo per una serie di ragioni che riguardano il passato dell'Italia, le leggi d'emergenza, i pentiti, il fatto che Battisti non fosse presente al processo, eccetera, eccetera. Però voglio farvi ascoltare una cosa, perché qualche volta bisogna essere polemici anche in maniera piuttosto pesante. Qualche settimana fa il presidente brasiliano Lula è stato in Italia ed è stato ospite del presidente del Consiglio Berlusconi, naturalmente, il quale Ricordate, quella visita di Lula ce la ricordiamo tutti come la visita insieme ai giocatori brasiliani del Milan, fatti arrivare apposta da Milanello per incontrare il presidente del Brasile. Io credo che Berlusconi forse qualche parola la poteva spendere su questo argomento, ma evidentemente non è che gli interessasse poi tanto. Un paese che è molto vicino a noi per tanti versi, io per la mia sensibilità musicale, per esempio, non posso pensare al Brasile se non come l'espressione della scuola musicale più rappresentativa nella storia della musica, insieme alla scuola e alla tradizione napoletana. Quindi sono moltissime le cose che ci uniscono. Saranno pure moltissime le cose che ci uniscono. Certo che questa vicenda di Battisti, secondo molti analisti, apre un problema molto forte nelle relazioni tra Italia e Brasile. Chiudiamo questa prima parte, poi ci facciamo spiegare da un ospite cosa è davvero successo in Brasile, a Brasilia e dintorni, con Maurizio Crozza ieri sera a Ballarò, a proposito di Air France, i saldi ed Air France. Crozza. Siamo un grande paese, oggi abbiamo di nuovo una grande compagnia aerea, non vola come quella di prima, però almeno costa poco, 320 milioni di euro. Air France ha fatto bene ad aspettare i saldi per comprarsela. 320 milioni. 320 milioni di euro. All'outlet ieri ho visto delle giacche che costavano di più. Chissà cosa voleva dire Spinetta quando ha affermato «Les Italiens sont des coillons». Chissà cosa voleva dire. Bene, Omero Ciai, giornalista di Repubblica, si è occupato a lungo di questa vicenda, sta per raggiungere il Brasile. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Buonasera. Volevo chiederti subito, agli italiani come si può spiegare una cosa di questo tipo? Cioè il fatto che un paese democratico come il Brasile conceda lo status di rifugiato politico a uno che ha commesso 4 omicidi con sentenza passata in giudicato per il fondato timore di persecuzione per motivi di razza o di opinione politica, questo dice la legge su cui si è basata principalmente la decisione del Ministro della Giustizia. Come spiegare? Ma allora, si può fare in diversi modi. Io però, se mi permetti, sono d'accordo con quello che tu dicevi prima. Cioè qui c'è un problema di un ministero della Giustizia, il nostro, sì, un ministero degli esteri, sempre il nostro, che in questi 2 anni, da quando Battisti è stato arrestato a Copacabana, il quartiere di Rio de Janeiro, non è stato evidentemente capace di spiegare ai brasiliani che situazione c'è oggi in Italia. Loro possono tranquillamente non saperlo, cioè voglio dire, adesso senza esagerare, però io ho l'impressione appunto che ci sia un problema davvero nostro. Sì, anche quello sicuramente, infatti. Dopodiché, per quanto riguarda i brasiliani, che era la tua domanda, c'è una consuetudine che si sperava questa volta fosse in qualche modo ribaltata o rinnegata, per cui in realtà in Brasile in questi anni ha sempre concesso l'asilo politico a italiani legati in qualche modo con gli anni di piombo. Erano, a parte la storia di Achille Lollo, la strage di Prima Valle, erano tutte cose abbastanza minori, cioè non c'era l'omicidio, non c'erano fatti di sangue, fatti di sangue. Non c'erano fatti di sangue, comunque non c'erano sentenze su fatti di sangue in Italia. Questo un po' dipende anche dal fatto che il Brasile è un paese che è uscito da una dittatura, che è un paese dove ci sono stati dei gruppi armati durante la dittatura e alla fine della dittatura c'è stata un'amnistia generale che ha in qualche modo cancellato tutto. Se tu pensi che l'attuale probabile candidata del dopo Lula nel 2010 è una signora che si chiama Dilma Rousseff, che faceva parte di uno di questi gruppi armati, dopodiché in Brasile furono piccole cose, non fu ovviamente il terrorismo italiano, però insomma si può spiegare un po' anche con questa con questa situazione storica che è diversa dalla nostra, e con questa consuetudine da parte del tribunale che per esempio ci restituisce estrada senza nessun problema qualsiasi italiano condannato per camorra, per mafia e altre cose, ma quando si tratta di delitti che hanno a che fare con gli anni di piombo c'è stato fino adesso sempre la scelta appunto dell'asilo politico. Un'altra cosa riguarda forse, e qui si va su un terreno più complicato e sì, anche incomprensibile, le dinamiche interne al partito dei lavoratori di Lula, cioè ha prevalso, si può dire, ecco, per semplificare, l'ala sinistra, quella ancora un po' legata. Per fare una cosa un po' pragmatica, se vuoi, cioè anche a brutale. Il partito di Lula è un partito che non si è, che ancora rappresenta quasi tutta la sinistra, che non c'è stato quello che c'è stato in Italia, le scissioni di Fondazione e via dicendo. Sì. Quindi ha all'interno una forte componente, diciamo così, di sinistra alternativa, no global, che in questo caso ha sicuramente pesato. Là, quello che io scriverò anche domani è che effettivamente comunque la scelta giusta l'ha fatta Battisti, cioè nel senso che lui... Ah, non c'è dubbio. No, ma nel senso, te lo spiego, nel senso che lui ha trovato è riuscito a un certo punto, dopo tempo, non subito, a farsi difendere da un avvocato che è lo stesso avvocato che è Grenalg, che difendeva, io lo chiamo l'avvocato del soccorso rosso, cioè era quello che difendeva durante la dittatura i sindacalisti arrestati. Questo avvocato è ovviamente un grande, è stato anche deputato del Partito dei Lavoratori nella scorsa legislatura, è ovviamente un grande amico di Tarso Genro e anche di Lula. Io, per quanto ne so, io per quello che sono riuscito a sapere, Lula non condivideva questa scelta, anche perché gli crea appunto molti problemi con una crisi diplomatica sicuramente con l'Italia, però sicuramente hai ragione tu, nel PT, nel Partito dei Lavoratori brasiliano ha pesato anche questa componente molto, ma anche l'ignoranza, cioè voglio dire, l'ignoranza, cioè considerare Battisti come alla stregua di una Dilma Rousseff, cioè di un loro estremista di sinistra degli anni Ottanta. Bene, ti ringrazio. Invece, purtroppo è molto diverso. Ti ringrazio. 18:53 800 24 00 24. Andiamo a sentire ascoltatori, naturalmente. Mario da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Sono velocissimo. Due cose, grazie per aver mandato questa registrazione di Berlusconi, che conferma ancora una volta da chi siamo governati, da un uomo di spettacolo a cui interessa poco, a cui interessano poco gli interessi del paese. Questo era un interesse del paese, secondo me, riportare in patria un terrorista. E mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, a parte che lo stesso atteggiamento l'ho avuto con l'Italia, ma chiudo la parentesi. Ho fatto venire in mente un'altra cosa, su una rete di, credo su Canale 5, è andato in onda un documentario prodotto dalla figlia di Craxi, le parole di Battisti mi hanno irritato tantissimo, perché è uno che si sente esiliato, perseguitato. Craxi è stato giudicato dalla stessa magistratura che ha giudicato Battisti, cioè e anche lui parlava così, mi hanno irritato altrettanto. Le due vicende non sono molto diverse. Quattro omicidi. Sì, ho capito, ma miliardi presi alle casse dello Stato sono un reato altrettanto. Vengono tolte agli ospedali, alle scuole. Va bene, Mario, eccetera. La ringrazio. Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Chiamo da Pomezia. Sono un po' emozionato, chiedo scusa. Io volevo raccontare la mia storia. Ho vissuto circa 3 anni e mezzo in Cile, no? E quindi so più o meno le situazioni, come vanno lì. E vuole essere breve. Se si va sul sito della Polizia Federale, è www.policiafederal.gov.br, oppure anche sul sito del Ministero della Giustizia brasiliana, che è www.milunga.gov.br. Cosa si trova? Cosa si trova? Si trova praticamente tutta la situazione dei rifugiati, chi vuole chiedere rifugio, chi vuole chiedere asilo, ovviamente tutto in lingua portoghese, sì. Chi vuole chiedere asilo, chi vuole chiedere il permesso di soggiorno come me, che l'ho chiesto all'epoca, e tutte queste cose. Questo cosa significa? No, volevo concludere. C'è anche sul sito della Polizia Federale i vari tipi di passaporti che sono a disposizione per chi anche chiede asilo o rifugio politico. Per esempio il passaporto blu, che è quello adesso, il nuovo passaporto brasiliano è blu, però ci sono anche c'è un passaporto giallo, se si può vedere anche sul sito. No, ma questo qua va bene, Alessandro, perché ci sta facendo questo racconto sulle differenze dei passaporti che si trovano? No, perché persone che hanno avuto il rifugio o l'asilo politico possono benissimo anche uscire dal Brasile senza problemi. Quindi teoricamente. Beh, certo, Alessandro, Battisti potrebbe anche uscire. Guardi, dal Brasile. Credo entro 24-48 ore Battisti sarà scarcerato e sarà un uomo libero in Brasile. È normale, non ha nessuna pendenza con la giustizia brasiliana. E dunque questa è la situazione. La ringrazio. Lina da Bologna, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Sono un po' emozionata, complimenti. Dunque io volevo intervenire su appunto Battisti, che è una vergogna, cioè che il Brasile non ce lo dia indietro, e poi anche che è sicuramente protetto dalla sinistra italiana. Ma guardi, protetto dalla sinistra italiana mi sembra troppo forte. Ci sono stati esponenti di Rifondazione Comunista che nel recente passato hanno promosso delle raccolte di firme o di solidarietà nei confronti di Battisti quando era in ballo l'estradizione dalla Francia. Ripeto, esponenti anche autorevoli di Rifondazione Comunista e scrittori come Henri De Luca, come altri scrittori di gialli, altri personaggi di questo tipo. Abbiamo una lunga lista che dopo faremo. TG3. Bossi sulla giustizia, non c'è accordo, la fiducia per coprire i contrasti, poi attacca Fini, il premier, nessun problema nella coalizione. La CEI contro la tassa sull'immigrazione è un balzello contro l'integrazione, dicono i vescovi. Maroni, le critiche non ci toccano. Il Cairo rivela, Hamas ha accettato il cessate il fuoco, si attende sia la conferma ufficiale da Gaza o da Damasco, sia la risposta di Israele. Le vittime dell'intervento israeliano a Gaza hanno superato quota 1000, 315 sono bambini, denuncia dei pacifisti israeliani. D'Alema al TG3, Berlusconi schiacciato su Israele, che differenza rispetto a Moro, Andreotti o Craxi, manifestazione pro-Israele a Montecitorio. Arrestato Giuseppe Setola, boss della Camorra e capo dei Casalesi, due giorni fa era sfuggito alla cattura attraverso un cunicolo. A novembre forte calo della produzione industriale, il dato peggiore dal 91, dice l'Istat, tracollo per l'auto, borse in forte perdita. È tornato in Italia Emanuele Attanzi, il cuoco dell'hotel di Mumbai attaccato dai terroristi, le foto con la sua bambina hanno fatto il giro del mondo. Beh, insomma, avete sentito D'Alema che torna ancora una volta praticamente ogni giorno sulla vicenda israelo-palestinese per dire la politica estera del governo italiano, del governo Berlusconi, è appiattita su Israele e addirittura ha nostalgia dei tempi di Andreotti e di Moro. Andiamo a sentire i titoli di Sky TG24. Fine della fuga, e manette Setola, boss de Casalesi, avete vinto voi, dice ai carabinieri. Soddisfazione delle istituzioni, decisivo il ruolo dei pentiti, commenta Piero Grasso. Immigrazione, botta e risposta tra i vescovi e il governo sulla tassa di soggiorno. Fiducia della Camera, il decreto anticrisi, Berlusconi, nessuna divisione nel governo. Gaza, Hamas apre alla tregua, Ban Ki-moon chiede lo stop immediato dei raid. Ma Osama soffia sul fuoco della Jihad, nuovo messaggio minaccia di Bin Laden. Borse bruciate oltre 200 miliardi in Italia, piccola produzione industriale. Mosca chiude i rubinetti del gas, Scajola sicuro, nessun problema per l'inverno. Battisti, no del Brasile all'estradizione, forte rammarico della Farnesina. A Marcor Cassano, Roma-Sampdoria, la prima del Barese da ex all'Olimpico. Segue ancora e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Il cuore matto, matto da legare, che Lo avete riconosciuto tutti, Little Tony, un cuore matto. Sentite come si difende dalle accuse di evasione fiscale. Ma insomma, voi non ricordavate Little Tony come il campione, quello che si è sempre presentato come il campione dell'italianità? Naturalmente le accuse di evasione fiscale sono tutte da provare ancora, Little Tony. Sono cittadino orgoglioso di essere cittadino della Repubblica di San Marino da 7 generazioni. Non voglio essere chiamato cittadino italiano, sono cittadino della Repubblica di San Marino. Io il mio 30% come cittadino straniero che lavora in Italia l'ho sempre pagato da 50 anni a oggi. Mi contestano che io sto più di 180 giorni in Italia, ma io non l'ho mai contati che se sto di più o di meno. Io vado a fare tournée in Australia, in America, in Canada. Un cuore matto che ti vuole bene. A lui hanno contestato 160.000 euro, pensate un po' che a Valentino, sempre per questa storia delle residenze vere o non vere, quanti giorni si trascorrono in Italia, quante attività ci sono in Italia, il fisco contesta 33 milioni di euro. È notizia di pochi istanti fa, durante la registrazione di Porta a Porta, cioè da Bruno Vespa, Luciano Moggi, l'ex dirigente della Juventus, cosa ha detto? Una cosa interessante: di solito la proprietà ti difende, invece la Juve non ha difeso né me né la Juve stessa. Per questo, se tornassi indietro, non mi dimetterei. Insomma, fece scalpore, ricordate, il 14 maggio 2006 a Bari, prima del diluvio, quando già il diluvio era iniziato, nel giorno della conquista della Juventus, dello scudetto numero 29, fece scalpore questa uscita di Luciano Moggi. Intanto vi chiederei una cortesia di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. Penserò solo a difendermi da tante cattiverie che sono state dette e fatte. Questo volevo dirvi, non ho domande, non posso rispondere alla domanda, anche perché no, vi ripeto, non ho la voglia di rispondere. Grazie. Sembra passato un secolo e Moggi è passato quasi indenne da un primo processo, ma il vero grande processo, come sapete, inizia il 20 di gennaio e, come sapete, Moggi ha chiamato addirittura a testimoniare Berlusconi, 498 testimoni a suo favore. A proposito di Berlusconi e delle frizioni all'interno del Partito del Popolo della Libertà, all'interno della maggioranza, anzi compresa la Lega naturalmente, in questo modo le spiega, secondo me in modo convincente, Lucia Annunziata. Sentite. È d'accordo Annunziata con questa sintesi del riformista che nelle ultime settimane il PDL assomiglia al Partito Democratico in quanto a acque agitate interne? Sì, con una eccezione che naturalmente determina già la conclusione diversa per la PDL e dal PD di queste liti. Nel PD non c'è un padre padrone e non c'è un centro fermo in questo momento. Nella PDL c'è un grande padre padrone che è Berlusconi e che, come già ha fatto quando si scoccia di un partito, può andarlo via come un cashmirino, salire su un predellino e dire adesso mi faccio un altro partito. Questa è la forza e la maledizione purtroppo della PDL. Oh, essi coccheroti da cuoco, voglio chiamarla mia re, nas noites claras de luar, Brasil. E beh, insomma, se conoscevamo finora il Brasile per tante cose, tra cui le canzoni, adesso è anche il paese che concede lo status di rifugiato politico a un tizio, a un uomo che ha commesso 4 omicidi, alcuni anche direttamente, altri come Mandante, il capo, l'ex capo dei proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, scrittore di successo in Francia, estradato in Francia tanti anni fa, prima protetto dalla dottrina Mitterrand, adesso protetto da quella che è stata ribattezzata come la dottrina Lula, sostanzialmente. Cosa ha detto qualche settimana fa Berlusconi al presidente brasiliano durante la visita di Lula in Italia? Evidentemente non qualcosa di particolarmente convincente. C'erano i giocatori brasiliani portati con l'aereo da Milanello fino a Roma per salutare il presidente Lula, e però evidentemente la questione Battisti non è stata sfiorata. Un paese che è molto vicino a noi per tanti versi, io per la mia sensibilità musicale, per esempio, non posso pensare a Bradile se non come l'espressione della scuola musicale più rappresentativa nella storia della musica, insieme alla scuola e alla tradizione napoletana. Quindi sono moltissime le cose che ci uniscono. Napoli, Brasile, la musica, eccetera, eccetera, molte le cose che ci uniscono, ma insomma, alla fine Battisti ne ha parlato, Berlusconi con Lula ha cercato di convincerlo, è stata forte l'azione diplomatica in questi mesi, non sembra. Nel marzo del 2007 Battisti era già molto sicuro di sé in un'intervista addirittura alle Iene. Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato 4 persone. Falso. La tua verità. Io devo assumere la responsabilità politica di quegli anni lì, però non posso accettare un istante soltanto il processo che ci è stato fatto. Di cosa vivi? Scrivendo. E prima? Ho fatto di tutto. L'incontro che ti ha cambiato la vita? Una gran bella ragazza che ho seguito fino alla lotta armata. Come si chiamava la tua organizzazione? Proletari Armati per il Comunismo. Cosa c'entravano con le Brigate Rosse? Nulla. Cos'erano le Brigate Rosse? Per me era una specie di PC armato, ragionavano uguale, avevano gli stessi schemi, c'era un universo tra noi. Ti senti ancora un militante? Beh, sì, militante vuol dire lavorare a tempo pieno per un ideale, no. Qual è stata la tua prima azione? Credo di aver bruciato una macchina. E qual è quella che ricordi con maggiore intensità? Un'azione di finanziamento dove ci hanno applaudito uscendo dalla banca. Chi applaudiva? I clienti e gli impiegati. Com'è andata? Senza armi, senza niente, nessuna violenza, offrendo sedie alle donne anziane, è stata una scena piacevole. Scusa, ma non avevate le pistole? Chiaro, però a un certo punto non c'era neanche più bisogno. In Italia si è arrivati a un punto dove qualcuno entrava in banca e diceva: io appartengo alla Brigata Rossa, datemi 200 milioni, e il direttore della banca glieli dava. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale, perché la vita umana è qualcosa che non si dovrebbe toccare. Tempo fa Arrigo Cavallina, che è stato il fondatore dei Proletari Armati per il Comunismo, adesso ha quasi 60 anni, anzi ha 60 anni suonati, definì Cesare Battisti, che non ha perso nell'intervista che avete sentito alle Iene, l'accento ciociaro, un malavitosetto di Latina, il quale però si sente un perseguitato politico. E oggi ti consideri un perseguitato? La parola perseguitato non mi è mai piaciuta, però comincia ad avere un senso quasi. Perché secondo te lo Stato italiano ce l'ha ancora tanto con te? Lo spaventapasseri rosso è sempre buono da tirar su per coprire un sacco di cose. Henry De Luca è uno degli scrittori italiani, insieme ad Evangelisti, altri scrittori tra virgolette minori, alcuni politici di Rifondazione, potete trovare tutto su internet, che negli anni hanno sostenuto la battaglia di Cesare Battisti per sottrarsi alla giustizia italiana. De Luca parla addirittura di accanimento terapeutico. Lo chiamo un accanimento terapeutico nei confronti di vinti e stravinti da molti anni, da decine di anni. E questo pensa Henry De Luca, uno degli scrittori italiani più apprezzati, il quale però sostiene la causa di Battisti, ma anche una giallista francese famosa, brava anche, come Fred Vargas. De Luca pensa che bisogna chiudere questa vicenda degli anni di piombo, i debiti penali, sentiamo. Sono per la chiusura dei debiti penali una volta per tutte, da molto tempo, insomma, desidero che vengano estinti i debiti penali per quei reati politici di tanti anni fa, e dunque considero il fatto che Battisti non venga in Italia una cosa positiva. Questo è Henry De Luca. In conclusione, vi ricordo il numero per intervenire, 800 24 00 24, l'intervista di D'Alema al TG3 è andata in onda pochi minuti fa. Cosa risponde alla critica? Insomma, in Kosovo lei autorizzò diversi bombardamenti. Cosa c'è di diverso? D'Alema. Le si rinfaccia anche la sua partecipazione da Presidente del Consiglio, il suo ruolo attivo alla guerra in Kosovo. È un accostamento assolutamente improprio. Oltretutto ho trovato scritto nell'editoriale del maggior giornale italiano che in Kosovo vi furono soltanto vittime serbe. Stupisce un simile livello di faziosità ed ignoranza. Si dimenticano le migliaia di vittime kosovare. Per questo furono decisi i bombardamenti aerei, per fermare una strage. Io credo, da questo punto di vista, davvero che anche nella discussione bisogna mantenere senso della misura e rispetto della verità. Va bene, secondo me non è particolarmente convincente questa risposta di D'Alema, però questa è la risposta a una delle critiche che sono state fatte a D'Alema negli ultimi giorni, e soprattutto da alcuni giornali, non solo da alcuni giornali. Cioè il fatto che D'Alema autorizzò i bombardamenti all'epoca sul Kosovo, bombardamenti in cui fu coinvolta anche la popolazione civile. Andiamo subito a Genova. Laura, buonasera. Buonasera. volevo fare un intervento sul fatto che oggi il film Gomorra è stato escluso dalla corsa agli Oscar. E in particolare su un servizio che ho sentito sul TG di Rete4, che continuava a far sentire interviste di persone che dicevano sì, ma meno male, del resto è un film che non rende giustizia all'Italia, Saviano si è solo fatto i soldi sulla pelle degli altri, eccetera. Ora, mi sembra un pochettino un messaggio volto nuovamente a infangare tutto e a cancellare tutto, perché è chiaro che è un film documentario che non può rappresentare l'Italia e non è quello lo scopo, ed è chiaro anche che se Saviano ha fatto un libro e un film di successo, poi abbia un guadagno, però ricordiamo anche che ha tutti i problemi che ha, che deve vivere sotto scorta, eccetera. Ora, del fatto che non sia in corsa agli Oscar è il meno, però è abbastanza preoccupante di come si continui a sotterrare il problema di mafia, camorra, eccetera, senza contare che comunque gli italiani la fama di mafia, pizza e mandolini ce l'avranno sempre. Adesso non allarghiamo il discorso a queste cose. Laura, io non so qual è stato il commento di Fede su Gomorra, che non è arrivato agli Oscar, o era un servizio semplicemente del TG4. Guardi, non lo so, lo manderemo in onda, così ci facciamo due risate. Non è la prima volta che il TG4 affronta la vicenda Saviano e Gomorra in un certo modo, in particolare Fede più volte ha fatto ironie sulla scorta concessa a Saviano, dicendo anch'io sono sotto scorta da tanti anni, eppure non dico certe cose come Saviano, non lo vado a dire in giro, insomma non faccio della scorta il mio status simbolo. Vabbè, insomma, sono stupidaggini dette da Fede. Il problema è che se lo sento dire è anche da persone comuni, così è più chiaramente viene passato dai media e più viene colto dalla popolazione. Va bene, la ringrazio. Andiamo in provincia di Varese. Stefano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, intanto i complimenti per la trasmissione. Niente, volevo intervenire su Battisti. Ho appreso la notizia e non sono particolarmente stupito da questa cosa, perché il solito soccorso rosso che dagli anni 70 avviene in queste situazioni. Mi piacerebbe a questo punto che un Santoro, un Di Pietro, facesse una bella trasmissione, non Di Pietro no, ma un Santoro, a parte che Di Pietro è sempre da Santoro, ecco, facesse una bella trasmissione su questo argomento. Non lo so, Stefano, cosa c'entra adesso Santoro? Da Battisti è passato a Santoro. Mi dica lei se si può fare un ragionamento di questo tipo. Semplicemente perché probabilmente questa notizia non passerà troppo a parte i primi giorni sui media. È anche comprensibile. Chi si ricorda di 4 omicidi degli anni 70, chi si ricorda di Cesare Battisti, non è un personaggio, diciamo, conosciuto al grande pubblico. In ogni caso, una trasmissione la facciamo noi domani mattina, che è viva voce su questo caso, e per adesso ci accontentiamo di questo, e la ringrazio. Alfredo da Roma, buonasera. Alfredo, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire a proposito di D'Alema per i suoi bombardamenti alla Jugoslavia, e che per fare i complimenti all'onorevole D'Alema per come prova a discolparsi, perché quei ponti sul Danubio caduti a Belgrado per me sono una ferita proprio al cuore dell'Europa, fatta da noi, perché Belgrado è una grande capitale europea, come Madrid, come Roma, come Parigi, e bombardarcela noi altri per me è qualche cosa di inconcepibile, proprio di una cosa pazzesca. Ecco, volevo solo rappresentare. Ma guardi, Alfredo, adesso a prescindere da dove furono sganciate le bombe, c'è la difesa di D'Alema rispetto alla critica che è stata fatta negli ultimi giorni su un pacifismo, tra virgolette, a corrente alternata, cioè quando si hanno responsabilità di governo qualche volta si devono prendere decisioni anche dure, anche impopolari, anche contrarie a quello che si è detto in precedenza, e fu il caso di D'Alema per la guerra del Kosovo. Adesso invece dall'opposizione è più semplice prendere alcune posizioni. La ringrazio. Andiamo a sentire da Sassuolo Stefano. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Un piccolo appello, così. Io sono, come ha detto lei, di Sassuolo, che magari non tutti lo sanno, ma fa un sacco di piastrelle e le esporta in tutto il mondo. Ed è molto in crisi, sì. Sassuolo, come abbiamo appreso da diversi giornali negli ultimi giorni, ma non ci volevano i giornali, naturalmente, per spiegarci una situazione di questo tipo. No, non ci volevano i giornali, anche perché comunque i giornali continuano, cioè le testate locali, per esempio, parlo del Resto del Carlino, per non fare nomi, ha messo la notizia, sì, in prima pagina, ma taglio basso, insomma c'è questo atteggiamento di cercare di buttare lo sporco sotto al tappeto, che non serve a niente, anche perché c'è la gente per strada a fare i picchetti, visto che le ceramiche stanno chiudendo. E l'ultima è anche il caso più clamoroso, è il gruppo Iris S.p.A., che è il quinto gruppo al mondo, sì, con solo mille dipendenti nel distretto ceramico di Sassuolo e limitrofi. Cosa ci voleva dire su questo? Per non parlare poi dell'indotto. No, volevo dire che sarebbe il caso che chi ci governa, o quantomeno, insomma, governa è una parola grossa, insomma, chi sta in Parlamento, ecco, è meglio, aprisse gli occhi, cioè è ora di iniziare a fare qualcosa. Non, sì, però Stefano, cosa bisogna fare? Uno potrebbe rispondere, è la crisi. Basta prendere un aereo, fare un'ora e 30 minuti di aereo, andare a Berlino a vedere quello che fanno i tedeschi. Basta prendere l'aereo, fare un'ora e 20 e andare a Parigi a vedere qualche fanno i francesi. Sì, mi scusi, il Stefano. Il piano anticrisi fa scappare da ridere. Sì, questo può darsi, ma non è che in Germania. No, questo no, questo è. Sì, d'accordo, questo secondo lei è, secondo altri non è. Mi scusi un attimo, non è che se c'è un'azienda in crisi, qualsiasi azienda in crisi a Berlino, come dice lei, o a Parigi, così tout court la salvano. Per cui uno potrebbe rispondere: è la crisi, è la globalizzazione. Bellezza, per carità, con tutti i drammi che ne conseguono, ma non è che un governo possa così prendere l'iniziativa di salvare la ceramica di Sassuolo. Ci sono altre dinamiche, no? Che sono quelle dell'economia di mercato, o no? Ma no, scusi, per piacere. Economia di cosa? Di mercato? Ma vogliamo parlare dell'Italia? Vogliamo parlare? No, ma non scherziamo. Ma cosa c'entra, Stefano? Stiamo parlando della Ma lei sta scherzando. Cosa bisogna fare? C'entra? Allora, mi dica concretamente. Sono andati sotto l'uscio con l'Italia. Sì, sì, d'accordo. Sì, sì, certo. 4 miliardi, sono d'accordo, no. Sono d'accordo con lei. Cosa bisogna fare per ma 4 miliardi, ma sono fior di soldi. Ma cosa bisogna fare per le piastrelle di Sassuolo? Me lo dica lei, allora. Cosa bisogna fare? No, guardi, le dico io cosa bisogna fare. Sentiamo la ricetta. Bisogna trovare delle persone in grado di avere una visione, non parlo di statisti, ma avere una visione politica, perché adesso, per quello che riguarda le piastre di Sassuolo, si può fare poco. A parte che Sassuolo non ha mai chiesto niente, cioè il distretto si è sempre mosso in modo molto autonomo, forse lo sa meglio di me, ma il distretto economico si muove in questo senso, proprio dal punto di vista storico è un po' un cane sciolto, quindi si è sempre arrangiato, nessuno si aspetta niente dal Parlamento, si aspetta solo che un minimo di serietà, cioè ci sono persone in strada, noi ormai siamo 20 anni rincoglioniti da televisione, cioè parliamo di Battisti, parliamo del Kosovo, parliamo di cose che in questo momento non hanno senso, cioè la situazione è molto grave e nasconderla non serve a niente. Allora, nessuno si aspetta che arrivi. È arrivato per l'Italia, cioè c'è gente che in questo momento fa affari, ma lascia stare, quella è una vergogna. E è arrivato per l'Italia, nessuno si aspetta dei soldi, ok? Però quantomeno l'esempio degli altri governi europei dovrebbe aiutare i nostri politici, anche se è una parola grossa, a darsi da fare, o quantomeno a evitare comportamenti che secondo me sono in questo momento fuori di testa, cioè perdere tempo sulla giustizia adesso è una cosa che non ha senso, proprio non ha senso. La ringrazio Stefano, anche lei conviene che è difficile intervenire in una situazione come quella di Sassuolo, che è certamente grave, che ci sia da occuparsi di queste cose più che della vicenda Battisti, non c'è dubbio, su questo sono d'accordo con lei. Andiamo a Padova da Andrea, buonasera. Buonasera a lei, volevo fare un passaggio diciamo sulla politica, sull'intervento che lei aveva fatto sentire di Lucia Annunziata. Mi permettevo di dire che sostanzialmente dissento abbastanza nella sostanza dell'intervento di Lucia Annunziata, ossia che sulla omogeneità diciamo dei due schieramenti in termini di qualità, di attività, questo può essere discutibile, si può essere più o meno d'accordo. Beh, quando lei dice di fatto nel PDL c'è un padrone, mentre nel PD c'è sostanzialmente di fatto così una discussione più equilibrata, più democratica, eccetera, a mio parere, se vogliamo, io ribalterei la cosa. Secondo me c'è un eccesso di mancanza di chiarezza da un punto di vista di chi fa che cosa, dell'indirizzo, di leadership. E poi soprattutto, secondo me, vorrei far notare che a me fa abbastanza sorridere questo protagonismo oscuro, molto sottile, molto fine di D'Alema, che dalla perdita diciamo delle elezioni con cadenza abbastanza continua, mensile, lui dice ma io non c'entro, però insomma, vorrei dire la mia, io non voglio dire, ma mi si permetta di parlare. Io credo che sostanzialmente le due situazioni siano molto più uguali quanto non sembra anche qua, quindi di fatto non ci sia quella virulenta protagonismo di Berlusconi, ma a mio parere il PDL fa parte di un canovaccio, ormai lo conosciamo a 10-12 anni, Bossi e la Lega va alla tratta, chiedono, poi si media, poi si va a cena in Valtellina, è un canovaccio, ma dall'altra parte a mio parere c'è altrettanto un canovaccio che è molto più apparente, molto più sostanziale di quanto l'apparenza non dica. Grazie. La ringrazio, siamo felici di ospitare Piero Sansonetti, buonasera. Buonasera. E come sapete fino a pochi giorni fa era il direttore di Liberazione, quotidiano di Rifondazione Comunista. Voglio subito chiedere a Sansonetti un commento sulla notizia del giorno, che è lo status di rifugiato politico attribuito a Cesare Battisti dalla giustizia brasiliana. Ora, al di là di quello che si può pensare sugli anni di piombo, sul modo di chiudere gli anni di piombo, e ci sono diverse opinioni, c'è chi dice bisogna chiuderli con un provvedimento di clemenza, c'è chi dice no, tutti devono pagare le pene che ancora sono pendenti, però mi sembrano le motivazioni del ministro della giustizia brasiliano, cioè la possibile persecuzione politica che Battisti può subire in Italia, un po' debolucce, o no? E credo che fondamentalmente fossero debolucce le sentenze di condanna, diciamo, perché da lì parte tutto. La sentenza di condanna di Battisti, che non è che funziona moltissimo, esaminata dai tribunali degli altri paesi, dei paesi più garantisti come sono la Gran Bretagna, come sono il Canada, come lo stesso Brasile, spesso anche la Francia, alcune delle nostre sentenze non funzionano perché spesso, come nel caso di Battisti, si basano solo sulla testimonianza di un pentito e senza riscontri, e la nostra giustizia le prende per buona, la giustizia di molti altri paesi non la prende per buona. In più nel caso di Battisti c'è il fatto singolare, come sapete, della condanna per due delitti commessi in contemporanea, uno a Milano e uno a Venezia, mi pare. Sì, anche se uno era, in uno era mandante, è stato condannato come mandante, e un altro come uno che ha partecipato all'agguato, insomma. Sì, concorso morale, uno dei due. È uno dei punti sui quali già in Francia era stata contestata la sentenza, perché ci sono comunque delle incongruenze, c'è una differenza fra la nostra giustizia e quella di altri paesi, e noi di questo dobbiamo prenderne atto. Lei è così sicuro? Vale la giustizia di altri paesi, vale come la nostra, spesso è più garantista, ma questo non è un difetto, insomma è un pregio. Lei è così sicuro che il ministro della giustizia brasiliana abbia preso in considerazione, spulciandole o facendosele compulsare le sentenze, e non sia invece una decisione politica, perché ha prevalso dalla sinistra del partito di Lula in questa decisione, i contatti personali, per carità legittimi, e le entrature dell'avvocato di Battisti in Brasile, tutte cose legittime, per carità, perché ognuno protegge la sua libertà, il suo modo di essere, è quello che... Beh, ma il caso era abbastanza famoso, è un caso abbastanza conosciuto quello di Battisti, quindi immagino che la giustizia brasiliana poi si sia basata anche sulle istruttorie fatte precedentemente, soprattutto in Francia, e del dibattito che c'era stato intorno a queste. anche sul piano internazionale, perché furono molti intellettuali francesi, ma anche di altri paesi, a chiedere un'estradizione di Battisti. E questo, sa, la questione non è solo che io penso che bisogna chiudere l'eredità di quegli anni, io credo che l'amnistia, insomma, un provvedimento sarebbe necessario, ma è che la lotta furibonda che ci fu fra lo Stato e la lotta armata in quegli anni produsse delle leggi restrittive, diciamo così, soprattutto produsse la legislazione sui pentiti, che col passare degli anni non regge più, diciamo, soprattutto all'estero, non regge più e non viene più considerata sufficientemente rigorosa, diciamo. E allora lì salta tutto. Il problema di chiudere i conti con gli anni di piombo non riguarda solo un fatto così di, diciamo, di storia, di perdonismo, come si dice, eccetera, ma riguarda anche il fatto di rimettere in regola e sulla stessa linea tutte le legislazioni, diciamo così. Ecco, la questione dei pentiti è una questione che in Italia è stata usata, adesso uno può essere favorevole o contrario all'uso di quello strumento, no? Però fu usato in una situazione tutta d'emergenza straordinaria e oggi non, indubbiamente non funziona più. Io credo che non andasse bene anche allora, un altro mi può dire che invece allora andava bene perché era necessario, eccetera, eccetera, ma è 30 anni dopo, è ovvio che viene fuori una cosa che non è più sostenibile, quindi dopo ci sono queste decisioni di corti straniere che decidono che l'Italia non dà sufficienti garanzie. E non è successo solo, questo è successo in molti paesi, perché riguarda la Gran Bretagna, riguarda la Francia, riguarda il Canada, riguarda il Brasile, riguarda l'Argentina, altri ancora adesso non ricordo. Senta Sanzonetti, per cui lei non dico che è contento, perché non è che conosca Battisti personalmente, insomma, di questa decisione, però è uno di quelli che pensa che portare Battisti in Italia, a farli scontare, poi in realtà non sarebbe stato nemmeno troppo, credo 2 o 3 anni mancavano, eccetera, sia una decisione giusta, buona, insomma, Battisti libero, perché tale tornerà tra 24-48 ore, è una buona notizia. Ma io adesso non sto dicendo né che è una buona né che è una cattiva notizia, e non sono né contento né triste, diciamo, per questa decisione. Io dico solo che non è logica, diciamo così, è logica, tenendo conto di come funziona la legge in Brasile e in altri paesi, di come sono andate le cose, di un processo sicuramente che è molto, il processo Battisti non regge molto, e allora è logico una decisione del genere, non vedo perché bisogna esserne agghiacciati. Dopodiché, se vuole sapere se io sono contento o triste quando metto una persona in prigione o quando la liberano, tendenzialmente tendo sempre ad essere più contento quando la liberano, sia che sia Battisti sia che sia chiunque altro. Ma questa è una mia attitudine personale, che c'entra poco. Lo so. Senti, un'altra cosa sulla invece, che un argomento che non c'entra niente con Battisti e che riguarda invece le cosiddette fibrillazioni politiche all'interno della maggioranza di centrodestra. Notavo prima una cosa che ho sentito a Lucia Annunziata: la differenza rispetto al Partito Democratico è che poi lì c'è uno che comanda nel centrodestra. È una differenza vera? Sì, una differenza vera, molto forte. E soprattutto c'è una differenza molto forte fra come funziona la politica in questi 5 anni che sono iniziati nell'aprile dell'anno scorso e come era funzionata nei decenni precedenti. Nei decenni precedenti le fibrillazioni all'interno delle maggioranze erano fondamentali nello svolgersi della lotta politica, perché c'era sempre il rischio della caduta del governo, sia in maniera clamorosa negli ultimi 2 anni con un governo che aveva appena 2 voti di maggioranza in Senato, ma sia in tutti gli anni precedenti, quando quasi sempre c'era un partito che era determinante per la tenuta della maggioranza e se si arrabbiava faceva cadere tutto. In questa nuova situazione, nuova del tutto inedita per l'Italia, con una maggioranza così schiacciante, con una leadership così forte di Berlusconi, le fibrillazioni politiche va bene mettere sui giornali, ma non cambiano quasi niente, perché le possibilità di caduta del governo sono attualmente praticamente inesistenti. E questa volta sono assolutamente d'accordo con lei. La ringrazio. Buona serata, grazie a Piero Sanzonetti. Andiamo a Pordenone, provincia di Pordenone. Simone, buonasera. Pronto? Mi sente, Simone? Sì, buonasera. Sì, su con la vita. Grazie, ce n'è bisogno. Allora, volevo tornare sull'argomento all'Italia, per cambiare. Leggevo sul sito del Corriere praticamente che ci sono dei giornali francesi che hanno aperto ringraziando con un merci Silvio all'accordo tra l'Italia, la nuova Italia e l'Air France praticamente. Questo Merci Silvio. Sì, l'abbiamo già detto ieri, un giornale economico molto diffuso in Francia, l'Esequo ha fatto un titolo Merci Silvio, grazie Berlusconi, Merci perché Silvio, è il grande affare che gli ha fatto fare all'Air France, chiaramente, sì, una cosa incredibile. Sì, non niente, non vi ho seguito ieri sera. No, ma non c'è problema, qual è il suo commento su questo, Simone? Ma che c'è da commentare, è una cosa incredibile, cioè questo Silvio qua dobbiamo farlo, altro che il primo ministro, dobbiamo farlo santo. E ci fate fare di quegli affari incredibili, giusto o no? Va bene, da Bologna, Sergio, buonasera. Buonasera. Sergio, dica. Sono Sergio Druidi, telefono da Bologna. Sì. Volevo parlare del signor Battisti, trattenuto all'estero. Poi dopo c'è stato quel signore di Sassuolo che mi ha stimolato altre cose. Comunque voglio essere breve. Io le volevo ricordare, innanzitutto, che di giustizia bisogna sempre parlare. Perché purtroppo si parla sempre di ingiustizia, ricordiamocelo. Poi quel signore che parla di Sassuolo, che è un polo industriale molto importante, che loro sono, diciamo che è un paese che stanno bene, come stiamo bene noi a Bologna, che però se funziona il business devono funzionare anche i soldi, devono funzionare anche la giustizia, giusto? Sì. Perché se non si lavora in maniera parallela è inutile che facciamo le cose, prima di tutto. Poi penso alla pochezza dei nostri politici, perché il signor Battisti è stato trattenuto all'estero, come in tantissimi altri casi, vede quello che ha detto la signora Sarkozy, quelle stupidaggini che ha detto, anche perché noi contiamo poco all'estero. Noi non contiamo niente, lei guardi, le rammento, le do solo 3-4 cose e poi dopo ascolto per telefono. Le dico la frase dell'Italicus. Vabbè, adesso non torniamo all'Italicus. Non parta con l'Italicus o del Cermis, perché se no può darsi, Sergio. Lei ha detto. D'accordo, Sergio, lei ha detto una cosa interessante, però noi contiamo poco, non abbiamo grande influenza. Potrebbe essere una delle spiegazioni sulla vicenda Battisti, cioè il fatto che non abbiamo saputo fare le pressioni necessarie. Sul presidente Lula per fare stradare Battisti. Roberto, provincia di Lecco, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, mi permetto di farle un appunto sulla questione anche Battisti. Anche due. No, ci mancherebbe. Sulla questione Battisti, ho sentito la sua risposta a un radioascoltatore e secondo me è stata forse un'uscita un po' infelice in questo senso, che lei ha fatto questa affermazione: chi si ricorda di 4 omicidi successi ormai quasi 40 anni fa? Ecco, forse i parenti delle vittime, ma non solo le vittime di Battisti, le vittime del terrorismo che vengono comunque messe sempre in secondo piano, perché purtroppo si parla sempre dei terroristi, si parla poco forse delle famiglie di chi ha sofferto. Ecco, forse questa sua affermazione mi è sembrata un po' forte, ecco, nei confronti di chi è stato vittima e è ancora vittima ancora oggi del terrorismo di 20 o di 30 anni fa. Ma guardi, tutto Roberto, qua Non voleva esserci nessun riferimento alle famiglie, era un dato di fatto che purtroppo in Italia oggi quegli avvenimenti sono lontani nel tempo. Era una spiegazione che volevo dare del perché magari la vicenda Battisti poi durerà alla fine sui media 1 o 2 giorni e poi scomparirà, appunto perché nessuno ricorda 4 omicidi della fine degli anni 70, perché queste vicende in fondo non interessano più nessuno. Ma a maggior ragione io credo che la giustizia debba fare il suo corso, lo stesso soprattutto di fronte a sentenze passate in giudicato. La ringrazio. Alfredo da Roma, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Quindi l'annunziata, che volevo parlare su Berlusconi, quello lì che si dice a destra, che lei ha detto anche a Sansonetti, ma è una cosa che è sempre stata così, voglio dire, si scopre oggi. A me quando parlavano di fare le primarie nel centrodestra, ma perché c'era anche da perdere tempo, perché c'era il problema che Berlusconi non portava a casa i 4.000 voti. 4 milioni. 4 milioni di voti, scusami, 4 milioni di voti. Ecco, voglio dire, a destra è così. Forse è bene, Annunziata diceva che è però una cosa positiva avere in una coalizione un leader molto forte, non lo diceva in senso negativo. No, lei lo dice così, però è forte sì, ma padrone no. Vede che è un leader forte, sono d'accordo. La differenza è con gli occhi con cui si guarda questa cosa. questo qui, questo è così, ma questo per me è sempre stato, perché nel centrodestra, anche quando c'era Casini, se lei ben si ricorda, strillavano tutti al momento, ma al momento di votare, Berlusconi quando va lì e dice dovete votare tutti, votano tutti. Lei se lo ricorda quando non ha fatto il viaggio in Russia, l'ha rimandato per la legge che si doveva votare e ha fatto mettere le dita fuori e solamente mi sembra che non mi ricordo se era l'anulare o l'indice che doveva stare all'interno e le telecamere controllavano se tutti votavano. Sì, no, Alfredo, ma la situazione, la situazione comunque è molto diversa rispetto alla legislatura 2001 e 2006 in cui Berlusconi aveva molti più problemi a gestire la maggioranza. TG5 titoli. Catturano il boss Setola, coi militi ammette avete vinto voi, due giorni fa era sfuggito alla cattura. Sdegno per il no all'estradizione del terrorista Cesare Battisti, Frattini convoca l'ambasciatore brasiliano, Alfano ripristina il carcere duro per il killer mafioso Ganci. Secondo fonti egiziane, Hamas sta discutendo la proposta di un cessate il fuoco, domani al Cairo il negoziatore israeliano, rispunta Bin Laden che incita alla guerra santa. Fiducia al governo sul provvedimento anticrisi. Berlusconi, governo compatto, bravo Fini. I vescovi contro la tassa sugli immigrati. Maroni c'è in tutta Europa. Pioggia, vento e mare in burrasca. Ancora disagi per il maltempo al sud. Traghetti fermi, linee ferroviarie interrotte, allagamenti in Campania, Calabria e Sicilia. Al TG5 Maria De Filippi per raccontarci la sfida serale di amici. Due squadre si contendono la vittoria finale a colpi di canzoni e coreografie. Bene, sentiamo se c'è qualche novità, qualche differenza con i titoli del TG1. Catturato il boss della camorra a Setola, evaso dalle fogne, ha cercato di fuggire ancora sui tetti, poi si è arreso, avete vinto. Berlusconi, va tutto bene con Fini e Lega, a giorni la riforma giustizia, l'opposizione è contestata sui permessi di soggiorno, una nota della CEI. Produzione industriale in calo, molto male l'auto, cattivi dati OCSE per l'Europa, in America ancora male i consumi e le borse. Gaza, Bin Laden chiama la Jihad contro Israele. Secondo gli egiziani, Hamas sarebbe pronta ad accettare la tregua. Il Brasile nega l'estradizione del terrorista Battista. Il governo fa appello a Lula, amarezza delle vittime. Orologi da polso, mito in crisi tra i giovani. Ora ciglia più lunghe, anche grazie a un farmaco americano. Bene, bene, 20 e 3 minuti. Prima del telegiornale della 7, i suoi titoli, andiamo a Lugano da Giancarlo. Buonasera. Buonasera Cruciani, io intervengo sulla questione dei permessi di soggiorno, la tassa sì. Che è stata richiesta in Italia. Io sono italiano. E poi non si chiamerà più tassa, ma in un altro modo, comunque per alleggerire servizio. Le polemiche. Io chiamo dalla Svizzera, ma sono italiano, sono 5 anni che vivo qui e io pago il permesso di soggiorno. Io ho un permesso di soggiorno da italiano uguale a quello di un senegalese, un americano, uno svedese, e per ogni cambio che viene fatto io pago 68 franchi, che sono circa 40 euro. Per ogni cambio che significa? Stato civile, indirizzo, datore di lavoro, quest'anno l'ho cambiato due volte e ho pagato 90 euro. Non mi sono sentito né un cittadino di serie B. Cioè per ogni cambio in quanto non cittadino svizzero lei paga un sovrappiù, diciamo? No, no, io come cittadino straniero, sì. Il mio referente è l'ufficio stranieri che ha i miei dati, a cui devo comunicare cambi di indirizzo, sì. Cambio di stato civile, esattamente come uno svizzero. L'ufficio stranieri per questo servizio che io faccio via posta, sì. Quindi 5 minuti per ritirare il formulario, inviarlo via posta, mi viene spedito a casa, sì. Pago 68 franchi. Però servizio... anche uno svizzero se cambia residenza paga 68 franchi o no? Questo non glielo so dire perché non. No, non cioè, ho... voglio dire, la questione è molto semplice. Il permesso di soggiorno in Italia non è che sia gratis, si paga già. C'è una tassa, chiamiamola così, un pagamento per le pratiche burocratiche che è intorno ai 70 euro, può variare a seconda di diversi parametri. Comunque, insomma, intorno ai 70 euro. La proposta è. Dare un altro conguaglio rispetto a questi 70 euro, si chiamerà così forse, cioè aumentare sostanzialmente il costo del permesso di soggiorno. Beh, io guardi, le dico, io in Svizzera quando è stato emesso il mio permesso di soggiorno, il mio datore di lavoro l'ha pagato, non so quanto, ma l'ha pagato perché ha depositato il mio contratto di lavoro, dopodiché per ogni operazione che io ho fatto di aggiornamento dei dati anagrafici, come si fa al consolato, io per l'ufficio degli stranieri svizzero ho dovuto pagare 68 franchi facendo un'operazione via posta, niente code, niente polizia che sorveglia l'ufficio stranieri, non ci sono risse, funziona. Il consolato di Lugano mi ha chiesto 140 franchi per rinnovare il passaporto, 100 euro diciamo, ma io non mi sento cittadino di serie B, ieri sera ho sentito interventi di accuse di razzismo eccetera, io non vedo, cioè io non vedo un problema di razzismo, è come pagare la carta d'identità, si paga 10 euro. La ringrazio. Dal mio punto di vista non mi sento un cittadino di serie B o sotto razzismo da parte dell'autorità. La ringrazio, andiamo a Como da Nino, buonasera. Buonasera, dica. Concludendo la trasmissione, volevo dire una cosa rispetto alla questione palestinese. Io sono di quelli che in questi giorni è sceso in piazza a sostegno del popolo palestinese, perché credo che in questo momento la situazione sia particolarmente drammatica e penso che si stia consumando una guerra civile che purtroppo dura tanto tempo e su cui purtroppo nei giornali italiani si ha poco riscontro, e in particolare questa giustificazione continua dei crimini commessi dallo Stato di Israele, che io non voglio confondere con la popolazione ebraica, perché non è questo il problema. Credo che anche la popolazione ebraica sia in qualche modo prigioniera da questo Stato, perché è costretto da 60 anni a stare in stato di guerra, facendosi anni di servizio militare. Tra l'altro il movimento dei Refusnik in qualche modo sta denunciando questo evento, questa tragedia che si sta consumando. Tra l'altro per la prima volta nella storia la gente sta in un posto da cui non può scappare, viene bombardata. Vittorio Arrigoni, che è l'unico italiano che sta lì, l'altro giorno su Caterpillar denunciava che le ambulanze sono obiettivi militari, vengono costantemente prese di mira, gli ospedali, la gente non sa dove andare a nascondersi, non c'hanno da mangiare, stanno mangiando il pane con ammuffito, riscaldato, quando riescono a riscaldarlo, non hanno acqua, non hanno luce. Ora tutto questo perché diventa un problema solo politico? È come dire che la colpa è di Hamas. Hamas ha le sue responsabilità sicuramente, ma non mi pare che sia giusto dire se io ti ammazzo lo faccio per colpa dell'amico tuo che non mi piace in faccia. Cioè è assurda questa situazione, è un genocidio. Perché non c'è indignazione? Perché non c'è una presa di posizione sull'umanità? Guardi, Nino, mi sembra che l'indignazione ci sia anche parecchia. Quello che manca invece è l'indignazione per altre cose. Quando e qui si parla di indignazione a corrente alternata, quando invece ci sono in mezzo vittime israeliane, la stessa indignazione, la stessa emozione, lo stesso trasporto, la stessa partecipazione non ci sono. Il punto è anche questo, poi ognuno la può vedere come vuole e ognuno vede il conflitto in Medio Oriente come intende guardarlo, con i suoi occhi, con i suoi parametri, con i suoi riferimenti storici. Titoli della Sette. Hamas verso il sì ad una tregua a Gaza, l'annuncio arriva dal Cairo dopo 3 giorni di trattative con la mediazione dei servizi egiziani, oltre 1000 finora le vittime palestinesi. Un messaggio di Bin Laden chiama gli arabi alla jihad per difendere Gaza. Duro colpo al clan dei Casalesi, catturato nel casertano il boss Giuseppe Seto, l'ha tentato di fuggire attraverso i tetti, è accusato di 18 omicidi, tra i quali 6 immigrati uccisi nella strage di Castel Volturno. Novembre nero per la produzione industriale italiana, secondo l'Istat si è perso il 12,3% rispetto a 12 mesi fa, è il dato peggiore da 17 anni, a poco a picco soprattutto il settore auto, meno 46,4%. Mercoledì di campionato per Roma e Sampdoria, che tra poco all'Olimpico recuperano la gara interrotta per pioggia, calcio mercato, Fiorentina e Samp. Andiamo a Chieti da Paolo. Pronto? Dica. Buonasera, sì. Buonasera. Paolo, buonasera, sì, la ringrazio per l'opportunità. Io mi ricollegavo a quello che diceva il signore di Sassuolo, no? Poco fa, e lei ha fatto una domanda specifica, ha detto cosa avrebbe potuto, si sarebbe potuto fare con 4 miliardi di euro. No, io non ho fatto questa domanda, no. Perché la valutazione di quanto costerà allo Stato, dunque ai contribuenti, la vicenda all'Italia è qualcosa di che può variare. Gli esperti dicono dai 3 ai 4 miliardi, poi siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché il commissario Fantozzi, come lei sa, si trova in una situazione in cui ancora deve finire tutta la vendita degli asset dell'Italia, insomma tutta la procedura che prevede il commissariamento dell'azienda, per cui sono sempre valutazioni che si fanno paragonando la vicenda attuale alla eventuale entrata di Air France praticamente un anno fa. Va bene, a parte questo, che poi chiaramente si vedrà come dice lei, io dico nel concreto, questi soldi comunque, che siano 3, 4, 2, non lo so, ma non sarebbe stato possibile utilizzarli per esempio per l'edilizia popolare, e in questo senso l'Iris, per esempio, l'Iris, faccio un esempio, dico questo perché di questo si parlava prima, che fabbrica materiale per l'edilizia, avrebbe potuto anche trovare, come altre case che fanno questo per esempio, possibilità di lavorare e far trovare occupazione a gente che ha bisogno di lavorare, piuttosto che sprecarli questi soldi, perché poi il mercato poi ci dirà se questa l'Italia resterà italiana, italica oppure altro, ma credo di no, insomma, poi questo lo vedremo, ma intanto questi soldi dovremmo sobbarcarceli noi italiani, questo è il punto. No, guardi Paolo, che questi soldi non sappiamo ancora quanti, non sappiamo quale sarà la differenza rispetto a un'ipotetica soluzione che era quella di Air France a marzo, aprile, questi soldi che sicuramente ci sono, un aggravio di costi per le casse dello Stato, lei dice potevano essere impiegati diversamente. Quando si parla di bilancio dello Stato, questi calcoli è difficile farli, questo passaggio di denaro, lei dice quelli risparmiati sulla vicenda d'Italia li si poteva impiegare altrove. Non è così scontato nel bilancio dello Stato. Vabbè, anche per esempio, come edilizia, certo, non di tipo popolare, con le grandi opere, per esempio il ponte sullo stretto, ma io vorrei vedere quest'opera faraonica, cosa semmai si potrà fare realmente, a cosa potrà servire. Vedi, questi soldi, non so quanti soldi dovrebbero essere necessari per fare una cosa del genere, ma quanto si potrebbe fare invece per fare nuovi posti di lavoro, voglio dire, per cose utili, perché l'edilizia popolare può essere appunto una cosa utile, ma può, immagino, tante altre cose. Ho capito. La ringrazio. Giorgio da Milano, buonasera. Buonasera, la sento molto distante. No, io la sento benissimo. Chiamavo perché prima c'è stato un ascoltatore che ha chiamato da Sassuolo riguardo appunto l'industria delle piastrelle e diceva che invece di occuparsi della giustizia il governo e il Parlamento dovrebbero occuparsi di aziende come quelle di Sassuolo che stanno fallendo, da quello che ho capito. Io sono un imprenditore e francamente per me il primo più grosso problema davanti a tutti gli altri problemi che il governo e il Parlamento devono affrontare e risolvere è quello della giustizia, perché con una giustizia che funziona gli imprenditori possono andare avanti, mentre invece con la giustizia come c'è adesso, sì, soprattutto la giustizia civile e soprattutto la velocizzazione dei ricorsi. L'altro giorno leggevo su qualche giornale che è questo il vero cancro, per esempio, nella costruzione di opere pubbliche nel nostro paese, sia a livello locale sia a livello nazionale, cioè dire i mille ostacoli che la burocrazia mette, e tra questi anche i ricorsi e i tempi dei ricorsi che ingolfano tutto. Giorgio, voleva concludere? Addirittura non permettono, se guardiamo quello che è successo poi a Pescara o dove era lì, non permettono a chi governa di governare, è follia pura. La ringrazio. A proposito dell'intervento di prima di un ascoltatore da Sassuolo che ci diceva i veri problemi sono la drammaticità della crisi, la perdita dei posti di lavoro, le piastrelle di Sassuolo, il distretto, il governo ha fatto dei provvedimenti insufficienti, largamente insufficienti, bisognerebbe fare altro, eccetera, eccetera. Innocenzo Cipolletta, che è presidente delle Ferrovie dello Stato, pochi minuti fa, intervenendo a titoli su Red, che è la televisione tra virgolette, di Massimo D'Alema, siamo davanti a una crisi comparabile con quella del 74 come entità. Ricordo che fu una crisi particolare, il prezzo del petrolio si moltiplicò per 4 in pochi giorni e per noi significò un cambio della vita. Ora credo che passeremo un bruttissimo inverno, ma non sarà la fine del mondo o la fine dell'economia, ne usciremo fuori nel 2010, ma con grandi difficoltà, molte imprese dovranno chiudere. C'è bisogno di una modifica degli ammortizzatori sociali che permetteranno di sostenere il reddito di chi perde il lavoro, ma potendo ridurre l'occupazione e prepararsi a ripartire, le aziende ne beneficeranno. Beh, insomma, il problema poi fondamentale è questo. Passeremo un brutto inverno, ma non sarà la fine del mondo o la fine dell'economia. E questo bisogna tenerlo sempre presente. Dove andiamo? Andiamo a sentire Giorgio da Bologna, che abbiamo chiamato perché si tratta di Giorgio Pagliarini, ordinario di energetica alla Facoltà di Ingegneria all'Università di Parma, e che ci ha scritto una lettera, una mail molto critica sull'intervento l'altro giorno del professor Franco Battaglia a proposito del risparmio energetico. Professor Pagliarini, buonasera. Buonasera, dottor Crussani, la ringrazio per l'opportunità e complimenti anche per la tua missione. Allora, si parlava con Battaglia l'altro giorno dell'inquinamento delle televisioni al plasma. Il consumo di energia da parte di alcuni apparati, in particolare fermi al plasma, poi la trasmissione di dati, cose del genere. Che sciocchezze ha detto Battaglia? Un signore che devo dire che io non sapevo chi fosse, anche perché all'inizio della trasmissione io non riuscivo a sentire perché la trasmissione era molto disturbata, non potevo ricevere bene, e però ho sentito delle affermazioni che mi hanno indotto a intervenire in qualche modo. Ecco, permetto che non è mia consuetudine intervenire. Non si preoccupi, dica pure, cos'è che non andava nelle cose che andava dicendo Battaglia? Lei mi dice che è un collega, mi fa di capire. Di sì, all'università, tra l'altro, di, se non sbaglio, di Modena, sì. Ecco, a proposito dell'energia, ha affermato che il problema dell'energia non esiste perché l'energia è abbondante e inoltre l'energia si conserva. Ora, io devo osservare una cosa, che in realtà questo il professor Battaglia, ecco, fa confusione fra due concetti che sono molto diversi. Uno è l'energia come grandezza fisica, l'altro è la risorsa energetica. Ora, è vero che l'energia si conserva, è vero che l'energia è abbondante, però per far funzionare il televisore al plasma, per far viaggiare i dati sulla rete internet, per far funzionare le automobili, per tutte quelle che sono le nostre esigenze, quello che serve sono le risorse energetiche. Che cosa sono le risorse energetiche? Sono i combustibili, cioè combustibili chimici e combustibili nucleari. Combustibili chimici sono il petrolio, il gas, il carbone prevalentemente. E quelli, lei dice, sono in esaurimento. Sappiamo che nel corso del ventunesimo secolo, dell'attuale secolo, andrà in esaurimento il petrolio e il gas. Il carbone si prevede che potrà continuare, essendoci di più, fino a circa metà del ventiduesimo secolo, però non sono infinite come risorse energetiche. Per quanto riguarda il nucleare, invece, il discorso è un po' diverso, perché il settore dell'energia nucleare è ancora un ambito un po' in fase di crescita, di sviluppo tecnologico, quindi potrebbero essere messe a punto tecnologie che potranno eventualmente consentire ancora di sfruttare combustibili che attualmente non possono essere. Senta, professor Pagliarini, l'altro giorno, tra l'altro, anche noi siamo incappati in un piccolo incidente, perché abbiamo dato per scontato una notizia sul ghiaccio che era in ripresa, sul ghiaccio dell'Antartide, il ghiaccio artico che era in ripresa. Oggi Repubblica dice la bufala del ghiaccio in ripresa, il ricercatore costretto a smentire, la notizia era stata lanciata dai negazionisti ma lo studioso tirato in ballo nega quelli artici, cioè i ghiacci artici rispetto al 79 sono diminuiti di 1 milione di chilometri quadrati. Insomma, la contesa sul clima sta diventando una questione come tra Guelfi e Ghibellini, Coppi contro Bartali, Mazzola contro Rivera, cioè i catastrofisti da una parte e i negazionisti dall'altra, è così? Ma adesso se il ghiaccio si sia ritirato o non si sia ritirato, questo io sinceramente non glielo so dire. So però, ed è un dato di fatto incontrovertibile, che ogni giorno noi bruciamo delle quantità enormi di combustibili, petrolio, gas naturale, altre cose del genere, che vanno poi nell'atmosfera. Mandiamo nell'atmosfera l'equivalente di 100 super petroliere piene di petrolio ogni giorno. tutta questa queste sostanze che sono poi composte di carbonio, che attualmente si trovano sottoterra, nel momento in cui noi le estraiamo e le bruciamo, si trasformano in varie altre cose, tra le quali la CO2, l'anidride carbonica, che va nell'atmosfera in quantità maggiore rispetto a quella che noi andiamo a bruciare come combustibile. Quindi tutta questa roba qui va nell'atmosfera e modifica in modo sostanziale quella che è la composizione dell'atmosfera. Sappiamo poi che l'energia carbonica è opaca, la radiazione è rossa, quindi è da aspettarsi certamente che produca un effetto di riscaldamento. Infatti, dunque, lei è d'accordo? Quando riguarda l'utilizzo di combustibili chimici, combustibili fossili, è non tanto quello che poi sappiamo che si esauriranno prima o poi, anzi in tempi abbastanza brevi tutto sommato, ma il fatto è il problema, il principale è quello del problema ambientale. Questo è sicuramente, c'è ancora molto dibattito su questo, però è incontrovertibile il fatto che noi stiamo provocando dei mutamenti nell'atmosfera, nella composizione dell'atmosfera, dei mutamenti che poi difficilmente potranno essere riportati nella condizione iniziale, recuperati, tempi ragionevoli rispetto a quelli che sono i tempi della vita umana. La ringrazio. 20 e 24, andiamo a Latina da Giuseppe, buonasera. Buonasera direttore, salve. Dica. Volevo appunto dire che secondo me, io sono elettore di sinistra, una città governata da destra da tantissimi anni, insomma. Lo sappiamo, insomma, che a Latina c'è un'amministrazione di centrodestra. Però io voglio dire una cosa, fondamentalmente poi Annunziata c'ha ragione, nel senso che io non mi ritrovo nel PD, non mi riconosco più, secondo me è meglio essere comunisti punto e basta, piuttosto che fare una cozzata poi di partiti e partitelli tutti confluiti e poi non essere più niente e nessuno, insomma. Dove vuole andare a parare con questo ragionamento, a parte che la cozzata? Voglio andare a parare il fatto che è meglio essere pochi e avere un leader forte, perché ricordiamoci sempre che l'uomo vive in branco e ha bisogno di un capo branco, piuttosto che fare i democratici e poi perdere consensi e sparire come Giuseppe. lasciamo perdere i branchi, i capo branchi e altre cose, non ho capito nulla del suo intervento, ripeto, forse sarà colpa mia, ma l'unica cosa che ho capito è che secondo lei nel Partito Democratico manca una leadership, insomma, su questo non ci sono dubbi. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Senta, dica. Io volevo parlare di Battisti, le volevo fare una domanda, un interrogativo che mi sono fatto, sì, e che nessuno ci dà una risposta. Questo Battisti dice che se torna in Italia avrebbe minacciato la vita, giusto? Allora, chi lo minaccia? I residui delle Brigate Rosse? Non credo, ne esistono quasi più. Io mi sono anche posto il problema che potrebbero essere anche i servizi segreti nostri italiani. Certo. Sì, perché, se è vero che la vita di Battisti è minacciata. Noi sappiamo che, questo glielo posso dare per sicuro, che molte delle stragi che sono state fatte in Italia sono state fatte dai servizi segreti italiani al soldo della CIA, perché una parte dei servizi segreti italiani per molti anni. Sì, scusi, però mi perdoni, Antonio, siccome non possiamo aprire questo capitolo, lei dà per certo qualcosa che naturalmente è molto in realtà discusso. Andiamo a Battisti, insomma, andiamo al sodo. Qual è il punto? Allora, come mai i giudici brasiliani non hanno dato l'estradizione? Ma non sono i giudici brasiliani, il ministro della giustizia brasiliana. Il ministro della giustizia brasiliana e Lula, sì, anche se di sinistra, una sinistra sui generis, non è che parliamo della Francia, parliamo di un paese in cui ci sono i squadroni della morte, quindi non è che c'è tutta questa democrazia o tutta. Sì, c'erano forse, c'erano. Guardi Antonio, mi deve spiegare dove vuole andare a parare, perché io non ho capito nulla ed è grave non capire due interventi consecutivi degli ascoltatori. Non capire, cioè domandiamoci perché non hanno dato il permesso della sua edizione e perché questo Battisti dice che lui è minacciato di morte se torna in Italia. Ed è quello che ci stiamo chiedendo da qualche ora, perché non è stata concessa l'estradizione e sul perché Battisti dice che è minacciato di morte, che è perseguitato, quella è una sua strategia per adesso vincente per ottenere la negazione dell'estradizione. La ringrazio, Antonio. Bene, gentili ascoltatori, riprendiamo alle 20:33 e andiamo a sentire Silvio, anzi no, Luca da Milano. Luca, buonasera. Sì, buonasera. Intanto la ringrazio per Cruciani. Io volevo fare una considerazione che è anche una domanda, e mi scuso in anticipo per la semplificazione. Vicenda all'Italia, affare all'Italia, sottolineo affare. Ma era necessaria, domando, questa fase transitoria in cui l'Italia, che poteva essere venduta direttamente a un compratore serio, capace di gestire una compagnia aerea, quindi un'altra compagnia aerea, a una cordata italiana che, francamente, io non sono un esperto in economia, leggo saltuariamente giornali economici, ma mi chiedo che utilità ha questa cordata? Mi sembra quasi una mediazione. Allora la mediazione non porta, mi pare, nulla di buono, anzi, come dire. Mediazione rispetto a cosa, mi scusi? Mediazione rispetto a un prezzo a cui è stato ceduto a questa cordata e a quale verrà poi rivenduto alla compagnia francese. Immagino che questi mediatori guadagneranno. Siccome in parte i soldi ce li ha messi il governo e ce li ha messi anche con degli interventi importanti e dovrà farlo ancora, la funzione del CAI di questa cordata qual è, punto di domanda? Forse il sospetto è che sia una semplice mediazione, come se fosse un, come dire, un oggetto o un manufatto, una trattativa immobiliare, non un passaggio di una società che concretamente si occupa di servizi. Ecco, questo volevo. Ma guardi, la ringrazio Luca per questo intervento. Lei vuole ripercorrere quello che è accaduto negli ultimi anni, anzi nell'ultimo anno in realtà, su questa vicenda di Alitalia, la trattativa con Air France, poi fallita per il doppio intervento dei sindacati di Berlusconi, e poi una fase di costruzione di questa cordata italiana in cui non ci sono imprenditori, diciamo, del campo dell'aviazione, a parte naturalmente Toto ed Air One, che sono confluiti all'interno di Alitalia, e poi il 25% ceduto ad Air France. Quali sono gli interessi dietro, la questione dell'italianità, il ruolo di questi imprenditori, hanno ricevuto un favore oppure no, stanno mettendo dei soldi e avviando un'attività industriale oppure vogliono solo guadagnarci quando tra qualche anno, come scrivono e dicono tutti, venderanno ad Air France? Ecco, questi sono, diciamo, gli interrogativi. Io non ho ancora delle risposte ben precise, vedremo. Salvatore da Catania. Salve dottor Cruciani, una buona serata. Dica. Allora, io voglio dare un esempio, un quesito. Io sono d'accordo con le 50 euro degli extracomunitari, di far pagare le 50 euro, per un semplice motivo. Cioè, tutti i giorni in Sicilia, da noi, specialmente a Lampedusa, vengono tanti clandestini. Noi abbiamo primo soccorso con guardia costiera, marinieri militare e ospitalità, come dicevamo, nel centro di accoglienza. Poi li rimandiamo indietro con l'aereo, con l'Italia, in qualsiasi di cosa. E poi che facciamo? Come dobbiamo reperire questi soldi? Cioè, tutto a discrezione dello Stato italiano. Cioè, questi signori entrano in Italia, fanno i loro porci comodi, perché sono i primi che fanno i contraffattori di borse. No, però, mi scusi, qui si sta parlando però di un'altra cosa. Non si sta parlando dell'immigrazione clandestina, di quelli che commettono reati, di quelli che fanno lavori non autorizzati. Lei dice entrano in Italia e fanno i loro porci comodi. Qui si sta parlando del rinnovo del permesso di soggiorno per persone che, naturalmente, rinnovando il permesso di soggiorno, si pensa tendenzialmente facciano un lavoro onesto, voglia di integrarsi, eccetera eccetera. Questi soldi servono anche per contribuire anche alle spese necessarie che lo Stato affronta. Va bene, questo è un altro discorso ed è la motivazione di fondo per la quale sembra si sia trovato un accordo all'interno della maggioranza su questo, anche se abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dire no, non si farà, e Maroni invece dire beh sì, presenteremo questa ipotesi di tassa. Volevo un suo parere semplicissimo. Io sono tornato una settimana fa da Roma verso Catania, ho preso all'Italia e sono stato veramente, cioè, io sono stato sequestrato dentro l'aereo. Mi hanno fatto salire dentro l'aereo i signori dell'Alitalia. Al momento in cui dovevamo partire non hanno tolto neanche la scala e hanno lasciato tutte le valigie aperte. Siamo stati un'ora sequestrati dentro l'aereo. grazie, dipendente all'Italia. Io sono d'accordo con loro, hanno le loro ragioni, ma non si può lasciare un'ora delle persone, 130, 140 dentro la stazione, lasciando le scale. Ma cosa era successo? Mi scusi, Salvatore. No, è uno sciopero, ci hanno fatto salire, ci hanno lasciato le valigie tutte fuori che stava piovendo e la scala attaccata, e quindi l'aereo non poteva partire. Grazie a queste signore. Va bene, Salvatore, la ringrazio. 20 e 38, TG2. Arrestato nel Casertano il boss dei casalesi Setola, sfuggito alla cattura 2 giorni fa. Avete vinto voi, ha detto i carabinieri, dopo aver tentato un'altra fuga sui tetti. Maroni, un duro colpo alla camorra. Hamas favorevole al piano egiziano per una tregua, più di 1000 i morti a Gaza, missione del segretario generale dell'ONU. Da Israele dice Ban Ki-moon, uso eccessivo della forza. Per il Berlusconi confini non c'è alcun problema, il super partes difende le prerogative del Parlamento, con la Lega nessuna fibrillazione, dice, sulla giustizia avanti con la riforma. Il Brasile rifiuta l'estradizione di Battisti, al terrorista rosso condannato in Italia per 4 omicidi, riconosciuto lo status di rifugiato, il figlio di una vittima per noi peggio di uno schiaffo. Compie oggi 90 anni Giulio Andreotti, senatore a vita, 7 volte presidente del Consiglio, oltre 20 volte ministro, una vita nella politica e nella DC, della quale non è mai stato segretario. Gli auguri di Napolitano e l'omaggio dell'Aula del Senato. Bene, Aldo da Milano, buonasera Aldo. Buonasera. Dica. Volevo intervenire un attimo sulla questa guerra, che una guerra è sempre una cosa voluta appunto fra Israele e Hamas, no? Voglio dire una cosa, è vero che 1000 morti sono tanti e sembra un massacro, però come possono vivere gli israeliani sempre sotto il pensiero che arrivino sti missili? Perché le spiego. Io una volta ho letto un'intervista su un giornale dove c'era una mamma che diceva, con 2 figli, 2 gemelle addirittura, diceva che gli faceva partire con 2 autobus diversi, perché diceva se fanno un attentato almeno uno si salva. Sì, la ricordo anch'io quell'intervista. Ecco, allora io voglio dire una cosa, secondo quei signori che dicono che sembra che Israele sia il cattivo a tutti i costi, ma secondo lei è vivere per un popolo in questo modo? È questo che io mi domando e dico, allora signori miei, è vero che bisogna vedere di mettersi d'accordo, vedere di non fare la guerra, però voglio dire una cosa, che non è che Israele è impazzito e ha fatto la guerra così, perché secondo me forse era stanca di vivere in questo modo. Ecco. La ringrazio. Grazie. Andrea da Terni, buonasera Andrea. Sì, buonasera. Ma volevo fare una considerazione lanciandone un pochino, come dire, un tema che può essere applicato ai vari argomenti discussi questa sera, da Battisti agli israeliani all'Italia. Credo che quando si giudica tra 2 opposte opinioni, è sempre bene riferirsi al principio che io chiamo di reciprocità, ossia quello che utilizziamo come criterio di giudizio per valutare un fatto, applicarlo anche nel caso opposto. Sul pratico di che possiamo parlare, ma se Battisti a suo tempo ha commesso un omicidio, perlomeno così riconosce la giustizia italiana, poi siamo in Italia e quindi se la giustizia si è espressa così non posso far altro che prenderne atto, insomma, no, questa è la verità nostra. Ecco, pensare poi, ma questo mi faceva pensare all'intervento di Sansonetti di poco fa, che ci possa essere, come dire, colpo di spugna perché ci sono delle motivazioni di un certo tipo che sono sicuramente diverse da quelle di un omicidio effettuato magari da quello che chiameremmo un bruto per motivi magari di sconvolgimento mentale, ecco, cioè ricorrere alla motivazione più che al fatto. Il fatto è l'omicidio, la legge italiana prevede che venga punito in un certo modo. Sì. Ecco, dobbiamo stare molto attenti perché altrimenti rischiamo di giustificare qualunque, come dire, misfatto o illegalità. Sì, se il ragionamento di Sansonetti era un po' strano, un po' bizzarro. Secondo lui, quando un altro paese osserva alcune sentenze emesse in Italia, allora nota delle incongruenze. Però, insomma, io credo che erano leggi eccezionali perché le leggi eccezionali rispondevano ad una situazione eccezionale. In dubbio. E da quel punto di vista io adesso non conosco, diciamo, come una richiesta di rifugio politico possa essere valutata da quel paese. Il principio di reciprocità bisognerebbe vedere se noi applichiamo diciamo la stessa logica rispetto al paese Brasile, in questo caso ad altri paesi. Va bene Andrea, la ringrazio. Piero, provincia di Caserta, buonasera. Sì, buonasera a lei, dottore. Niente, io intervenivo per la problematica all'Italia che veniva citata prima. Un aneddoto molto brevemente: io nel maggio 2008 mi sposo e vado in viaggio di nozze a Miami negli Stati Uniti. Arrivo a Miami e con Air France, perché era proprio il periodo della turbolenza, quindi per non rischiare di rimanere a casa, insomma, non decidiamo di non prendere l'Italia. Arriviamo lì e riunione della sorte, prendiamo la navetta dei piloti dell'Alitalia. Sì. Succede che arriviamo proprio sotto l'hotel dei piloti e abbiamo constatato che era l'hotel più bello che noi abbiamo visto a Miami in una settimana, insomma, che siamo stati lì. Quindi dico, è possibile che in un periodo di crisi dove ci si aspetta che vi sia un atteggiamento di riserva, un atteggiamento di parsimonia, si vada a prendere l'albergo più lusso, cioè veramente io, è stato sicuramente il più bel albergo che ho visto a Miami. Quindi dico, magari non dico che i piloti debbano andare all'osteria o alla pensione a 2 stelle, però magari in Mediaset Virtus, quindi una cosa di mediazione, secondo me sarebbe la soluzione ottimale. Tutto qua. Piero, io ci credo naturalmente e spero anche che queste situazioni siano situazioni del passato, siano situazioni ormai chiuse, terminate, quelle degli alberghi a 4, 5 stelle, delle navette, eccetera, eccetera. Concluderei per questa sera alle 20.44 perché il tempo è scaduto. Stefano da Milano, Silvio da Taranto, ci sentiamo naturalmente domani 18.30.